Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, il tema, se vogliamo essere molto molto concreti e diretti, si chiama Monte dei Paschi. Di nuovo il titolo perde adesso il 14%, è sceso a 28 centesimi di euro per azione, quindi il mercato ed è stato anche sospeso per eccesso di volatilità e di ribasso. Questo il calo è iniziato, l'abbiamo spiegato ieri, dopo l'indicazione della lettera della Banca Centrale Europea che chiede al Monte dei Paschi di ridurre di 10 miliardi di euro l'esposizione e quindi i crediti deteriorati, le sofferenze, i non performing loans, i crediti dati che non torneranno più indietro. Questo ha portato il titolo ieri a perdere il 14% e oggi a perdere il 14%. Il problema è a questo punto come e che cosa fare, perché Monte dei Paschi per molte ore non è riuscita a far prezzo a Piazza Affari, riammesso, sospeso, ha tentato un recupero, sono sotto pressione tutti i titoli obbligazionari bancari, anche perché in base alle nuove regole dei salvataggi bancari, il famoso bail-in, sarebbero coinvolti subito in eventuali ristrutturazioni bancarie. Un subordinato del Monte dei Paschi risulta in calo come obbligazione del 10%, il valore di 77 centesimi sul prezzo nominale di un euro. Un bond di Intesa San Paolo scende del 3,3%, 91 centesimi. Un subordinato di UniCredit risulta in flessione del 2,5% a 95 centesimi. Quindi lo schema approvato la scorsa settimana da Bruxelles, di cui poi abbiamo avuto notizia venerdì, quindi le garanzie pubbliche fino a 150 miliardi non sta servendo a nulla, anche perché poi è uno schema di garanzia ma non di ingresso vero e proprio nel capitale. Lo scudo per il sistema bancario proposto dall'Italia, approvato dall'Unione Europea, è uno strumento utile, ribadisce però oggi il ministro dell'economia Padoan, per minimizzare l'instabilità. Detto questo, secondo la Süddeutsche Zeitung vi potrebbe essere un accordo, o meglio Berlino sarebbe disponibile a un compromesso sull'Italia e sulle regole e sulle sofferenze bancarie. Il governo tedesco è stretto infatti tra il non creare maggiore ulteriore instabilità nell'area euro e il rispetto delle regole. E poi la banca d'affari Goldman Sachs stima che servono 40 miliardi al sistema bancario italiano per far pulizia nei bilanci. E quindi, tra l'altro, gli Italian Texas Ratios, quindi il rapporto tra crediti deteriorati e patrimonio, quanto patrimonio hai rispetto ai crediti che non ti torneranno più indietro, è il più alto in Europa. Quindi rende il capitale bancario molto sensibile all'ipotesi di copertura. Nel dettaglio, UniCredit viene promossa da Goldman Sachs, da Hold a Buy, però dice Goldman Sachs potrebbe aver bisogno di raccogliere tra i 6,7 e i 9 miliardi di capitale extra. Guardate che quando si dice raccogliere è una formula per dire aumento di capitale, cioè raccogliere sul mercato questa cifra. Ora il problema è dove e come li raccogli e quanto il mercato è disponibile a darteli. Perché gli aumenti di capitale le banche italiane li hanno fatti negli anni scorsi. Il solo Monte dei Paschi ha fatto aumenti di capitale per 9 miliardi, che chiaramente non sono serviti. Ora, l'Aria, il Banco Popolare, 1 miliardo di aumento di capitale l'ha fatto e lo ha portato a buon termine. Il problema è capire se il mercato può reggere aumenti di capitale di questa entità, se li può reggere tutti assieme. Insomma, la situazione è assolutamente incerta. È ovvio che un accordo, che la strada maestra potrebbe essere un accordo a livello di Unione Europea, di area euro, con il benestare della Germania, per trovare una forma di garanzia e permettere alle banche di impacchettare, vendere. Perché qual è il problema di questi crediti? Che se tu li hai in bilancio, poni che io ti debba 100 euro sono in sofferenza, quindi sono uno che tenderà a non ripagarteli perché sono fallito come impresa, perché questo è la maggior parte dei casi, ho avuto difficoltà economiche, oppure perché me li hai prestati per altri motivi, anche questo è successo, motivi diciamo di rapporti, motivi di insomma, di cattiva gestione della banca, e quindi io già fin dall'inizio ero uno a rischio. Ma detto questo, ti devo 100 euro, ora tu in bilancio li metti come ipotesi che magari ne riuscirai a ottenere 60 di euro. Se però tu sei costretto a rettificare questa tua stima e non è più 60 ma è, a questo punto stimi che potrai avere massimo 20 di euro da me, questo comporta un peggioramento del tuo bilancio e quindi per le regole bancarie europee devi poi peggiora il tuo bilancio e devi ricapitalizzare, cioè devi riaumentare il patrimonio, perché non ti entreranno più 40 euro, 60 euro da Barisoni, ma forse 20 euro, e a quel punto la perdita di 40 euro in più. Sommando tutte queste operazioni, il tuo patrimonio scende e a questo punto, e aumentano le tue sofferenze, a questo punto le regole bancarie europee ti dicono no, devi ricapitalizzare. Ecco perché si pone il tema della ricapitalizzazione, perché i crediti in sofferenza andranno svalutati ulteriormente. Ancora, e ho fatto un esempio proprio di scuola classica, di questo parleremo subito anche di altri dati. Oggi c'è stata per esempio qui al Sole 24 Ore la presentazione del bilancio della meccanica italiana e ne parleremo anche della borsa, perché non c'è solo Monte dei Paschi che perde adesso il 15,80%, ha ripreso a essere contrattato, insomma era meglio se stava sospeso. Sul fronte bancario va male Banca Popolare, -3,60%, invece Unicredit, grazie anche immagino alla promozione da parte di Goldman Sachs, guadagna l'1,1, UbiBanca guadagna l'1,60, Mediaset più 2,5%. Ancora, per quello che riguarda i titoli, Uxnet a portare -6,70, Unipolsai -4,60, CNH -4,20 come Azimut e Saipem, per il 3,70 lo perde Fiat Chrysler, il 3,5 il Banco Popolare Unipol, e ancora, scusatemi, Exor -3%, come Mediobanca e Leonardo Finmeccanica. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, per WhatsApp, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. In apertura l'aggiornamento dalla Brexit, diciamo così. Allora, per quello che riguarda più che la Brexit, questo è il caso di Parigi, un attimo, una parentesi, perché torna in piazza Parigi, torna in piazza i manifestanti contro la riforma del lavoro, il Jobs Act alla francese, la cosiddetta loi travail. 45.000 persone questo pomeriggio a Parigi in piazza, la questura ne stima al massimo 7.500, in diminuzione rispetto alle altre manifestazioni, ma la cosa importante è che Manuel Valls ha forzato la mano sulla riforma del lavoro dopo le indiscrezioni di questa mattina. Il premier francese ha confermato l'intenzione di ricorrere per una seconda volta alla procedura 49.3. Che cosa vuol dire? Vuole sostanzialmente dire che il governo adotterà la legge senza passare per il voto del Parlamento, salvo una mozione di censura dei deputati nelle 24 ore successive. Dopo l'annuncio del Premier, l'opposizione ha lasciato, la sinistra ha lasciato l'emiciclo in segno di protesta. La destra, chiaramente. Allora, veniamo alla Brexit. La sterlina è ai nuovi minimi sul dollaro dal 1985. Da oltre 30 anni a questa parte, ai minimi, a 1,31. E cala anche a 0,84 pence sull'euro dopo aver toccato i minimi anche in questo caso contro la moneta unica dall'ottobre del 2013. E non so se sia l'inizio, però sicuramente è un dato, perché oggi due fondi britannici, Standard Life Investments e Aviva Investments, hanno sospeso le contrattazioni. Sono due fondi di real estate, due fondi immobiliari. Uno vale 3 miliardi di sterline, l'altro 1 miliardo e 800 milioni di sterline. Dopo che, in seguito all'esito del referendum, è cresciuto moltissimo il numero degli investitori che hanno chiesto di ritirare i propri capitali dai fondi britannici, in questo caso due fondi immobiliari. Perché? Beh, perché evidentemente gli investitori hanno paura che cali il prezzo dell'immobiliare a Londra e quindi vogliono uscire dai fondi che investono in immobiliare. I fondi investivano in immobili commerciali, inclusi uffici, negozi, magazzini, e gli analisti temono che il valore degli uffici londinesi possa calare fino al 20% entro i prossimi 3 anni, da quando appunto la Gran Bretagna ha votato l'uscita dall'Unione Europea. E su questo si concentrano oggi 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, a firma del vice direttore Alessandro Platerotti. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Chi ricorda l'estate del 2007 e l'estate del 2008, le famose estati roventi dei mutui subprime, quando i fondi immobiliari furono i primi a cadere trascinando con sé le banche e poi tutto il settore dei real estate, sia nell'edilizia residenziale che in quella commerciale? Ebbene, stiamo vedendo un fenomeno simile in questi giorni. Già da ieri il colosso inglese Standard Life è stato costretto a chiudere agli investitori la possibilità di effettuare i riscatti, cioè disinvestire dal fondo, e lo fare rimarrà chiuso fino al 28 luglio. Un provvedimento che riporta proprio a quell'estate del 2008. Oggi è stata la volta di un secondo fondo, un fondo molto importante che si chiama Aviva Investors. Aviva è un'altra compagnia assicurativa che è stata costretta, ha annunciato la chiusura ai riscatti, proprio per evitare che gli investitori, chiedendo i soldi indietro, possano costringere il fondo a liquidare immobili a prezzi di realizzo. Qual è l'effetto concreto di questi provvedimenti? È che probabilmente ci sarà una nuova compressione al ribasso del mattone in Inghilterra. Già oggi si dice che per effetto della sterlina, del calo subito della sterlina, le casse sono più vantaggiose. In realtà, al di là di questo aspetto legato al cambio, è soprattutto il valore immobiliare che ne sta risentendo in se stesso. Che cosa succederà? Sicuramente sono periodi molto delicati questi per gli investitori che specializzati sui fondi immobiliari, però guai di altrui possono essere benefici per noi. E non è un caso se proprio in questi giorni in Italia ci siano state ben 4 offerte pubbliche di acquisto sui fondi immobiliari che erano stati più colpiti, tra l'altro in Europa, dalla fuga dei capitali. Insomma, è un momento importante perché c'è un momento di ripresa di fondi che se ne vanno dall'Inghilterra, ma è un momento delicato perché possono essere false illusioni e il rischio di scottature è sempre molto alto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo sempre sulla Brexit molti messaggi. Guardate che io non so se siano vere tutte le previsioni più catastrofiche, anzi diciamo quelle più catastrofiche probabilmente sono eccedono in pessimismo, ma non ho nemmeno la sicurezza, e invidio un po' la sicurezza di alcuni così ascoltatori che dicono: ma va, la Brexit, tutto andrà meglio. Per ora non è così, per ora tutte le stime che noi vediamo sono di un danno economico anche alla Gran Bretagna e un danno economico anche all'area europea, e una Gran Bretagna in cui tutti i grandi leader di questa Brexit, mi riferisco appunto all'ultimo Farage, ma non solo, anche all'ex sindaco di Londra, insomma sono tutti dimessi, per cui tutto questo successo della Brexit io non lo vedo. Poi che abbiano ragione i grandi pessimisti che vedono solo nero, magari esagerano per difetto, ma anche certi geni che mi scrivono convinti che tanto la Brexit farà solo bene, meno male che gli inglesi l'hanno fatta, a me sembra che si stiano pentendo, non tutti ma molti, in Gran Bretagna del casino che... Altrimenti mi spiegate perché ancora oggi Angela Merkel poco fa deve ricordare alla Gran Bretagna che deve far chiarezza sui prossimi passaggi? Stiamo aspettando che ci faccia sapere la roadmap, cioè il percorso per uscire dall'Unione Europea. Mi sembra che questo possiamo essere d'accordo su una cosa, che i britannici non hanno nessuna voglia di accelerare questo processo, perché continuano a prendere tempo. A settembre-ottobre c'era il congresso dei conservatori, ne riparleremo nel 2017, ma non sembrava, non era una trappola, una gabbia, un cappio al collo? E invece adesso sono tutti lì che prendono tempo, e oggi di nuovo la Germania chiede maggiore precisione sui tempi di uscita. We'll be right back. Vabbè, poi vi arriveremo di nuovo sulla Brexit. Intanto l'industria meccanica, dicevo che oggi qui al Sole 24 Ore si è tenuta l'assemblea annuale di Anima, quindi l'industria meccanica italiana, produzione che nel 2015 è cresciuta del 2% a 44,2 miliardi di euro, stime per il 2016 a 44,6, quindi un incremento dell'1%. Anima riunisce tutte le industrie della meccanica varia e meccanica affine. È il settore che cresce nonostante vi siano incognite sull'export e anche incognite sull'Italia. Dal 2011-2015 gli Stati Uniti sono tornati ad essere la prima destinazione per l'export di meccanica made in Italy. Da 1,5 miliardi a 2,7 miliardi di euro abbiamo esportato negli Stati Uniti. Il Regno Unito è il quarto paese di destinazione dell'export, scambi pari a 1,2 miliardi, e è ripartito un po' anche il mercato interno italiano. Però loro stessi hanno temono le implicazioni della Brexit, le conseguenze della Brexit, ma il presidente di Anima, Alberto Caprari, al microfono della nostra Anna Marino, ha detto comunque ci attendiamo che siano effetti limitati. In questo momento il polso della meccanica è positivo, al di là dei numeri di chiusura del 2015 e del primo periodo dell'anno un poco messo in discussione con la votazione in Inghilterra, fino a un momento prima il sentiment degli industriali, delle aziende, di chi è con le mani in pasta nel mondo della meccanica era ben più positivo che mesi fa. E per quanto riguarda il mercato cresciuto del 2%, il dato sorprendente è il mercato interno italiano? Sì, non è una sorpresa perché è il frutto di stimoli che hanno portato avanti le imprese italiane che operano nel panorama territoriale italiano. Va considerato che sempre più imprese operanti in Italia come clienti del manifatturiero della meccanica operano come OEM, quindi fanno package, soluzioni integrate che esportano. Quindi c'è una dose di fatturato versato, diciamo noi, in Italia che dall'Italia se ne esce facendo installazioni o vendendo macchine o manufatti che vanno in giro per il mondo, quindi un pezzo dell'Italia è export. Questo è per il 2015, nel 2016 è previsto un più 1%, fai conti anche con la Brexit e con i mercati esteri che sono un po' traballanti? Sono fondamentalmente ottimista perché ritengo che quanto all'Inghilterra sia innanzitutto il frutto di una speculazione, o meglio è stata gonfiata una tematica che è molto locale e molto territoriale. In parole povere penso che quelli che ci rimetteranno davvero, se usciranno veramente, perché io qualche dubbio ce l'ho, permettetemelo, sono gli inglesi e UK. Il resto dell'Europa forse, se verranno confermati i termini che ci stanno un po' raccontando, potrebbe anche beneficiarne a livello industriale e di opportunità di mercato, al di là di quello che dicono nel mondo della finanza. Cosa chiedete al governo, visto che appunto avete questi numeri? Noi chiediamo ancora una volta una sorta di patto per l'innovazione che esprima dei contributi, delle agevolazioni, delle semplificazioni che le imprese tocchino con mano e possano spendere idealmente già dal 2016. Già con la legge di stabilità vorreste qualche cambiamento in favore delle vostre imprese? Certamente sì, abbiamo un tavolo aperto con Confindustria a cui partecipiamo, il presidente Boccia sta portando avanti in maniera molto concreta una lista di tematiche precise col governo Renzi, siamo fiduciosi che qualche cosa venga confermato a breve. Allora, e parleremo comunque degli effetti sulla Brexit. È interessante quanto ha appena detto Caprai, abbiamo appena ascoltato, cioè che un conto è la finanza, un conto sono le esportazioni. E ieri abbiamo fatto un approfondimento sul tentativo che sta facendo Milano, che farà Milano domani, di proporsi come sede per l'Agenzia del Farmaco e per anche l'Agenzia Bancaria Europea. Però, insomma, io l'unica cosa che dico è che tutti sti festeggiamenti per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea non li vedo. Non li vedo neanche in chi l'ha votata la Brexit. Per cui, almeno su questo possiamo essere d'accordo? Dicevamo comunque delle imprese meccaniche, perché su questo è intervenuto oggi anche il presidente di Confindustria Boccia, nel suo intervento all'Assemblea Generale e Anima, e ha richiamato il governo a fare la propria parte. E se sbagliamo a fare accordi e quella forbice si eleva in termini di deficit di competitività in rapporto alla Germania, non facciamo solo un pessimo accordo contro tutte le parti che sono gli attori della fabbrica, ma lo facciamo contro il paese. E questo purtroppo non possiamo farlo. E al governo diciamo non ci stressasse troppo sulla questione temporale delle regole, ma si occupasse della detassazione e decontribuzione dei premi di produzione per rendere conveniente quello scambio salario-produttività e per farci arrivare per convenienza, per chi non ci arriva per cultura, su una strada in cui la questione relazioni industriali è una delle dimensioni di intervento organico di politica economica del Paese. Qui il tema è la trattativa con i sindacati sui nuovi modelli contrattuali e sapete che Confindustria preme per avere contratti di carattere nazionale, ma poi il contratto più significativo, quello di secondo livello, legato alla produttività, quindi uno scambio, contratto, produttività, aumento lo stipendio se aumenta la produttività aziendale, dando quindi maggior forza al contratto di secondo livello. Il ragionamento di Boccia è: il governo non ci chieda solo dei tempi, perché il governo ha fatto sapere sia con il ministro Calenda che con il premier Renzi, ha chiesto alle parti, cioè sindacati e Confindustria, di muoversi, altrimenti sarebbe intervenuto lui. Non ci dia solo i tempi, ma ci dia gli strumenti, perché è chiaro che se tu defiscalizzi i premi di produttività puoi fare un accordo in cui, se l'impresa aumenta la sua produttività, il premio che resta in busta paga al dipendente è più alto di quello che tu non avresti con il cuneo fiscale, e quindi riesce ad avere anche una contrattazione, non dico più agevolata, ma più significativa sui numeri, perché io ti posso dare 100 euro di aumento, ma se poi 40 se ne tiene il cuneo fiscale sono 60 euro di aumento, se viene defiscalizzato sono 100 euro, e su questo a questo afferisce poi il passaggio di Boccia. E poi sempre il Presidente Confindustria, il microfono della nostra Anna Marino, ha sottolineato il ruolo delle imprese anche in tema di politica industriale e quali misure prese dal governo hanno funzionato e potrebbero essere riconfermate a partire dalla Sabatini. Questo è un grande paese industriale, abbiamo degli strumenti molto importanti, la Sabatini, superammortamenti, anche la questione Jobs Act ha dimostrato che il sistema, quando tocca strumenti che accelerano la questione industriale, il sistema reagisce. Su questo fronte dobbiamo andare chiaramente completando un'idea di intervento organico di politica economica. E anche le banche devono fare la loro parte. Devono fare la nostra parte, a partire da noi. Il paese, diciamo, ha una fase delicata, deve fare i conti con le sue potenzialità e il ceto responsabile deve essere coerente. E sulla parte fiscale, oggi il ministro Delrio invece ha detto che fra poco presenterà al governo il progetto per la delega con misure per la riduzione, da un punto di vista generale, dei costi per gli automobilisti. Gli unici incentivi però previsti sono quelli per il superammortamento, il 140% del macchinario per le aziende. Non previsti incentivi a privati, anche il bollo auto sarà oggetto di riforma. Un ultimo dato prima della pausa: le entrate fiscali più 2,7% nei primi 5 mesi, senza bollo e il canone sarebbero più 5%, la quota praticamente 156,4 miliardi, 4 miliardi in più. L'IVA è cresciuta di 3 miliardi e 600 milioni nei primi 5 mesi, quindi quasi il 9% in più. Oh, allora, mi scrive un ascoltatore: io festeggio la Brexit da quando è diventata realtà e godo come un porco a pensare a Barisoni e Confindustria che stanno vedendo il loro leviatano nazi europeo morire. Ma lei gode per veramente poco. Comunque, ci sono altri motivi. Andiamo sul meteo, la lascio godere, ci mancherebbe, se siamo contro il godimento. Andiamo sul meteo e poi commentiamo altri effetti della Brexit. In primo luogo l'export agroalimentare italiano, già pesantemente danneggiato dal controembargo russo. La borsa ha chiuso con un meno 1,50%, il Monte dei Paschi ha chiuso con un meno 17%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Vedo adesso che il sindaco di Siena ha chiesto che intervenga il governo contro la speculazione sul Monte dei Paschi. Il titolo ormai è a 27 centesimi di euro. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. For making it. Allora, arriviamo fra poco anche alla borsa, perché avremo una lunga pagina sul Monte dei Paschi, su quello che sta capitando anche alle obbligazioni bancarie italiane. Però prima vorrei continuare sulla Brexit, sul tema di quanto veniva prima esposto nel caso specifico dell'industria meccanica. Guardate, io ho detto semplicemente che da questo punto di vista non mi sembra che ci sia tutto questo entusiasmo in Gran Bretagna sulla Brexit, e che siano tutti a festeggiare, al di là delle scelte. Insomma, io poi, come devo commentare uno come Farage, che si non vuole prendersi la leadership del movimento, ma continua a farsi pagare lo stipendio da eurodeputato a Bruxelles? No, allora vattene anche da Bruxelles, visto che odi l'Europa a questo punto. Insomma, basta la coerenza. Comunque vedo che molti dicono: ma guardi che insomma lei è contro la Brexit. No, io non me la prendo con nessuno, guardo i fatti. Magari fra 3 anni commenteremo il grande boom britannico, fra 2 mesi o fra 3 mesi, dopo Brexit. Per ora i fatti sono che non hanno nessuna fretta, che tentennano e che si fanno prendere anche a schiaffi dal resto degli europei, che gli dicono: oh, adesso hai votato, facci sapere quando esci, perché l'articolo 50 non lo può attivare l'Unione Europea, non lo può attivare Bruxelles, deve attivare il paese, in questo caso Gran Bretagna, per iniziare le procedure di uscita. Poi, se a voi sembra che invece gli inglesi stiano tutti contenti e festeggiando il voto sulla Brexit e non vedono l'ora di uscire, secondo me vedono quegli ascoltatori un altro film. Allora. Ci sta cascando la borsa, sì, insomma, sta cascando, ma non è che sta cascando il Monte dei Paschi. Vi arriviamo fra un attimo, però vorrei continuare con la Brexit e ringrazio per averci raggiunto in collegamento Luigi Scordamaglia, che è presidente di Federalimentare. Buonasera, presidente. Buonasera a voi. Perché prima il suo collega di Anima, e quindi Industria Meccanica Italiana, lo abbiamo ascoltato, ha detto oggi, è stata l'assemblea: un conto è la finanza, un conto siamo noi, vediamo, cerchiamo di capire. Voi che avete un giro d'affari complessivo del settore alimentare di 132 miliardi, quasi 40 miliardi di export l'anno scorso, con una flessione però delle vendite alla Russia pesante, andavano bene le vendite in altri settori. Per quello che riguarda la Gran Bretagna, se ricordo bene, però me lo confermi, la Gran Bretagna vi dava che quanto di export alimentare? Intorno al 9,7? Sì, è quarto paese di destinazione, corrisponde a circa 2,8 miliardi, ma soprattutto un mercato in costante e rapida espansione. L'anno scorso è cresciuto più del doppio della media di esportazione verso aree del mondo, quindi sicuramente una destinazione molto consolidata in crescita. Mm. E 2,8 miliardi, ma cosa temete? Perché un primo effetto potrebbe essere sul cambio, però insomma, è vero che oggi il pound, la sterlina è di nuovo molto debole, non era così bassa verso l'euro dal 2008, se non ricordo male, molto debole nei confronti del dollaro, è a 0,85 in questo momento, ma è l'effetto cambio? Assolutamente sì, in realtà la preoccupazione breve è proprio questo: l'apprezzamento dell'euro sui prodotti alimentari potrebbe far sì che i prezzi aumentassero per gli inglesi e quindi riducessero o flettessero in qualche modo gli acquisti, ma è una preoccupazione soprattutto a breve. A lungo, in maniera stabile, noi vediamo una domanda che c'è, continuerà ad esserci in quel paese, perché ripeto, gli inglesi hanno ormai un feed in particolare con i nostri prodotti che sono strutturalmente presenti a scaffale. In futuro un'ulteriore preoccupazione potrebbe essere il tipo di associazione che ci sarà tra Regno Unito e Unione Europea, che si vada verso uno spazio economico, si vada verso un accordo di associazione, speriamo, e diamo abbastanza per scontato che non sorgano comunque ostacoli al libero scambio dei prodotti. Ecco, su questo però vi sta facendo più male al settore agroalimentare la Russia o le ipotesi sulla Brexit? Beh, assolutamente le ipotesi sulla Brexit non prevediamo mai che i flussi si arrestino, che gli ostacoli siano significativi, per cui non siamo così preoccupati. La Russia fa male sempre di più per ogni giorno che le sanzioni continuano ad essere confermate, perché cresce soprattutto il fenomeno dell'Italian Sounding in quel paese, quindi l'attenzione sulla Russia è costante. Se non posso certo scegliere un mercato di riferimento, ma voglio dire, la Russia è per noi assolutamente prioritaria. Il Regno Unito non si perderà mai qualunque cosa succede. E su questo io ricordo la settimana scorsa la manifestazione a Verona della Coldiretti, perché tra l'altro quello che sta capitando, devo dire che lei già ce lo anticipò, non è solo il danno economico in miliardi di export mancato, ma il fatto che in Russia inizino a esserci prodotti che prima non c'erano, Italian sounding come si chiamano, sappiamo che a livello mondiale quello che sembra italiano, suona italiano, vale due volte il nostro export, 37 miliardi di export, quasi oltre 60 l'Italian sounding, ma la Russia era un mercato che comprava l'originale, non comprava la copia, per essere proprio espliciti. Voi siete preoccupati perché oltre al danno, diciamo, del momento, si rischiano di perdere anche quote e posizionamenti? Certo, c'è un effetto sostitutivo, abbiamo visto dalla Bresaola di Krasnodar a Mozzarelle di San Pietroburgo, abbiamo visto delle cose che non erano mai comparse assolutamente su quel mercato e questo ci preoccupa ovviamente molto. L'ultimo incontro che abbiamo avuto con il presidente, insieme al presidente Renzi, durante il forum di San Pietroburgo, è stato proprio incentrato come settore agroalimentare sulla difesa che il governo russo si è impegnato a fare delle nostre DOP e IGP nei confronti di questi fenomeni imitativi. Quindi siamo fiduciosi, ma premiamo soprattutto per la revoca delle sanzioni. Ecco, ma dopo l'incontro, visto che lei era uno dei protagonisti, oltre chiaramente a Renzi e a Putin del vertice di San Pietroburgo che abbiamo seguito con la nostra inviata Laura Bettini, ma Le rassicurazioni la rassicurano, Scordamaglia? Ma l'impegno del governo russo, il governo russo vuole che noi andiamo lì a sviluppare insieme a loro il Made in Italy, vuole che li aiutiamo a produrre commodity come filiera agroalimentare e lo facciamo. A fronte di questo impegno italiano, loro si sono impegnati a tutelare meglio le denominazioni di vendita, le denominazioni geografiche prodotte in Italia e a cercare di contrastare questo tipo di fenomeno. Ovviamente l'obiettivo principale è quello di ottenere una revoca delle sanzioni, cosa per cui l'Italia in quell'occasione si è data molto da fare, ma dipende anche da questa Europa che da un lato è debole e inesistente come con il Regno Unito e dall'altro crea problemi nei confronti di un paese importante come la Russia. Allora, in bocca al lupo, grazie, è importante anche questa rassicurazione. Io nel senso, più rassicurazioni abbiamo come italiani, meglio stiamo, se la otteniamo da Anima e la otteniamo anche in parte da Federalimentare, ed è legata soprattutto al tasso di cambio, se ben capito, non certo a altre forme di concorrenza, meglio ancora. Poi parleremo invece di quanto sta capitando alle banche italiane, alla borsa italiana. Intanto ringrazio Luigi Scodamaglia, che è appunto presidente di Federalimentare. Andiamo sul traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presento Focus Economia. Allora, iniziamo con la lunga pagina di borsa, lasciamo fuori, come abbiamo fatto ieri, Monte dei Paschi, che è un caso a sé. In realtà, senza il Monte dei Paschi, oggi Milano sarebbe andata anche meglio, già lo ha fatto di altre borse europee, perché Parigi perde l'1,70, Francoforte l'1,80, Londra è l'unica che guadagna lo 0,48, Dow Jones meno 0,66. Che succede a Milano? Abbiamo avuto titoli come Mediaset positivi dell'1,80, UbiBanca dell'1,30, Unicredit più 0,70, Pop Milano più 0,20. Certo, poi Monte dei Paschi, adesso vedo l'ultimo valore rettificato, meno 19,39. Io non so, ieri ha perso 14, oggi 19. Dobbiamo fare i calcoli, per favore. Se sommiamo anche i tonfi dovuti alla Brexit, qui a Spagna ha perso un 40% del valore in una settimana. Yux Net-a-Porter meno 7%, CNH meno 4,70, Azimut meno 4,60, il 4,40 Unipol Sam, il 4,20 Saipem come Fiat Chrysler, il 3,80 Banco Popolare come Unipol, il 3,20 Leonardo Finmeccanica come Mediobanca ed Exor. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, Londra recupera perché praticamente la Bank of England sta aiutando le banche britanniche e le permette di abbattere le riserve di capitale che le banche devono avere, e quindi questo ha portato, assieme ad altre cose, anche un indebolimento della sterlina, ma ha fatto respirare le banche. Sì, sicuramente questa mossa, che peraltro era stata anticipata nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni, ed è arrivata puntuale con la prima riunione dell'Istituto Centrale Inglese, ha permesso, diciamo così, di dare un segnale alla volontà degli istituti di credito a supportare l'economia, e chiaramente dall'altro canto si prosegue, e in questo la reazione è stata la flessione della sterlina a 3 anni come minimi sull'euro e a 31 anni sul dollaro, prosegue l'attesa e le scommesse per il possibile taglio dei tassi di interesse che dovrebbe avvenire da parte della BOE probabilmente in agosto. Qualcuno potrebbe si aspetta anche una possibile sorpresa nel mese di luglio. Allora, per quello che riguarda poi i singoli titoli, abbiamo visto oggi in positivo Mediaset, la presentazione del palinsesto ieri, la pubblicità in crescita, poi il titolo un po' ritracciato, guadagnava oltre il 3,5%, Fiat meno 3,3%, scusatemi, Ubibanca più 1,36%, Unicredit. Oggi le banche, al di là del Monte dei Paschi, hanno tentato un po' un rimbalzo, non il Banco Popolare che ha perso il 3,80%, non Mediobanca che ha perso il 3,21%, ma altri, e Intesa ha perso il 2,20%, ma gli altri titoli sì. Sì, sicuramente, anche perché le performance per esempio di Ubi e di Unicredit, che comunque hanno concluso la seduta rispettivamente con più 1,3 e più 0,7 Unicredit, si sono spinte nel corso della giornata anche al di sopra dei valori poi di chiusura. Unicredit è arrivata fino a 1,9 euro, e Ubi Banca per esempio fino a 2,4 euro, quindi un andamento delle banche, diciamo, spostato sulla tenuta non solo di questi due istituti, ma anche della Popolare di Milano e della Popolare dell'Emilia Romagna, ma chiaramente vanificato dalla performance del Monte dei Paschi. Per rispondere alla tua curiosità precedente, dall'inizio della sera precedente alla Brexit, il Monte dei Paschi ha perso il 51% in borsa. Metà valore in una settimana, un poco più, diciamo. Questo è soprattutto da dove veniva, perché sai, tu perdi metà valore ma viene a livelli alti, qui siamo a 26, una capitalizzazione di borsa inferiore agli 800 milioni di euro. Ieri capitalizzava 1 miliardo, oggi capitalizza 800 milioni. Non ci vuole un genio, se perdi il 20%. Il dato è abbastanza chiaro. No, stavo guardando lo storico del Monte dei Paschi per capire, no, nel senso che al 2013, prendiamo come riferimento l'inizio del 2014, ancora il titolo valeva 4,5 euro. Se andiamo a 2015, il titolo valeva ancora 2,40 euro. Se andiamo a esattamente un anno fa, così ci riposizioniamo, il titolo era 1,50 euro, 1,70 euro, 1,80 euro. Ora, lo dico perché le tensioni c'erano già state, non si veniva da un bel periodo, tutto quello che volete, era 1,50 euro, adesso siamo a 26 centesimi, non so. Da questo punto di vista il tracollo è fortissimo. Adesso ne parleremo, vedo molti messaggi su questo. Andiamo avanti con gli altri titoli invece, Andrea. Iux da un lato, Fiat dall'altro. Sì, lo scivolone della sterlina ha sicuramente contribuito all'andamento di Iux, che stiamo vedendo molto legata all'andamento dell'indiscrezione e insomma delle sorti del Regno Unito, visto la sua esposizione in Inghilterra, ma soprattutto siamo alla vigilia della presentazione del piano strategico, che verrà reso noto domani mattina prima dell'apertura dei mercati, e quindi gli investitori hanno preferito prendere le distanze dal titolo. Lo stesso è avvenuto per Fiat Chrysler, che alla fine ha perso oltre il 4%, il perché si spiega ancora una volta con l'andamento del mercato brasiliano, particolarmente debole in questo 2016. Nel mese di giugno meno 26% le immatricolazioni per il gruppo Fiat rispetto a un mercato che si è contratto del 19%, quindi una performance che fa perdere quote di mercato a Fiat Chrysler sul mercato brasiliano. Allora, i migliori e peggiori, il peggior titolo è Monte dei Paschi, adesso continuate a rettificare il prezzo, meno 19,30, eccolo qua, va bene, meno 19,39%, Zucchi meno 10,60, Cassa di risparmio di Genova meno 8,80, e poi titoli minori, Benistabili meno 8, Italia Independent meno 8%. Il fronte opposto dominato da Bioera più 30%, Metorios Capital più 19%, investimenti e sviluppo più 18%. qualcuno mi chiede, ma lei è triste? No, non sono triste, mi chiedete di Cruciani, ma Cruciani resta Radio 24 su principali insesti di Mediaset. No, se sono triste per il Monte dei Paschi, no, non sono triste, sono preoccupato, nel senso che una banca di valore nazionale che si riduce, che perde il 50% a 9, poi c'è, in una settimana a me preoccupa. Poi c'è chi gioca al tanto peggio tanto meglio, vabbè, perché evidentemente quello se lo possono permettere quelli che vogliono vedere sempre comunque il sangue. Io sono preoccupato, e vediamo di capire quali possono essere alcune soluzioni possibili dopo il GR24. Intanto ringrazio Andrea Fontana, Radio Cori Sole 24 Ore. GR, il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, non abbiamo mai detto che Monte dei Paschi stia perdendo per colpa della Brexit. Abbiamo detto che da quando è arrivata l'ondata di vendite e di speculazione sulla borsa, il Monte dei Paschi, cioè dal voto britannico, il Monte dei Paschi ha perso un altro 50%. E abbiamo fatto notare, lo dico agli ascoltatori, che un anno fa valeva ancora tra 1,90 euro, 1,70 euro, adesso vale 26 centesimi. Se poi prendo due anni fa, valeva 4,32 euro. Addirittura a giugno eravamo a 7 euro, 6 euro, 7 euro. Per cui il tracollo non è che si può chiamare Brexit. Quello che è successo dopo la Brexit, cioè l'ondata di panico e speculazione, si è abbattuta soprattutto sui titoli più fragili e considerati più a rischio, e quindi in questo caso soprattutto su Monte dei Paschi. Ma quello che sta capitando da due giorni a Monte dei Paschi è la cioè da ieri, è la conseguenza della lettera della Banca Centrale Europea, che ha detto a Monte dei Paschi: attenzione, prima di arrivare alle nostre valutazioni dovrai trovare 10 miliardi di euro di liquidità. E oggi vanno male tutti i titoli obbligazionari del settore bancario. Quello del Monte dei Paschi ha perso il 10% del valore a 77 centesimi sul prezzo nominale di 1 euro. Il Coco Bond di Intesa è sceso del 3%, anche quello di Unicredit. Allora, nel ringraziare il professor Marco Nado, che è docente di economia degli intermediari finanziari alla Bocconi di Milano, ex commissario Consob e editorialista del Sole 24 Ore anche sui temi bancari. Buonasera professore. Buonasera a voi. Ringrazio anche il nostro Moria Longo per parlare appunto di quello che sta capitando sulle banche. Vorrei farvi sentire due cose. La prima è la proposta che è arrivata ieri dai nostri microfoni dall'economista, dal suo collega Luigi Zingales, e oggi devo dire in parte ripresa anche dall'articolo sul Corriere della Sera di Alesina e Giavazzi. Che cosa farebbe Zingales? Il taglio è non operazioni mirate sulla singola banca, ma che andrebbero a marchiare la banca come, diciamo, una lettera scarlata, ma operazioni per tutto il sistema bancario. Se poi vuole uno le azioni le ricompra, e invece chi ne ha bisogno utilizza queste garanzie di Stato. Ma sentiamo questo passaggio. Se noi facessimo un bail-in su una società, su una banca italiana di importanti dimensioni, secondo me avremo facilmente un panico nel settore bancario, con delle conseguenze disastrose. Quello che secondo me è importante è capire come intervenire nel modo definitivo. Cioè, purtroppo io ho imparato dall'esperienza americana, dove sono stati fatti molti tentativi che sono andati a vuoto e hanno creato più panico di non fare niente. Perché quando lo Stato interviene, ma interviene male, evidenzia che ci sono dei problemi e non li risolve. Quindi o non fa nulla, o quando entra deve entrare con una forza talmente preponderante che mette tutto a tacere. Ma quindi lei per quale soluzione sarebbe a questo punto? La CDP che va a garantire? Io sarei una che soluzione va a garantire di una specie di TARP all'italiana, nel cui la CDP interviene nelle banche con degli investimenti diretti, ma in azioni, chiamiamole preferred, cioè delle azioni che hanno un valore nominale e sono simili rispetto a tutte le altre azioni. Perché dico questo? Perché una delle caratteristiche dell'intervento deve essere che deve essere fatto velocemente in maniera simile per tutte le imprese, d'altra parte tutte le banche, d'altra parte le banche sono in condizioni diverse, quindi il mio intervento ha questo vantaggio che se diciamo interveniamo sulla Banca Intesa, ma Banca Intesa è solida, il Banca Intesa può fare un aumento di capitale, ricomprarsi le preferred al valore nominale e gli azionisti di Banca Intesa non ci hanno perso una lira nell'operazione. Perché farlo su tutto? Non avrebbero più senso interventi mirati a quel punto? Perché è difficilissimo per lo Stato oggi decidere chi è sano e chi no. E il rischio di questo è che richieda un sacco di tempo e che poi quelli non sani vengano identificati come non sani e quindi abbiano una particolare corsa agli sportelli o problemi eccetera eccetera devastanti. Allora, vorrei intanto un primo commento su questo. Nel giorno, allora, la Banca Centrale Europea ieri ha mandato una lettera a Monte dei Paschi dicendo: prima degli stress test, prima di valutarvi a luglio, sistemate almeno 10 miliardi di crediti deteriorati. Capirai? In una banca che vale meno di un miliardo in borsa, vale 800 milioni di capitalizzazione adesso e che ha già fatto aumenti di capitale in questi anni per 9 miliardi. Poco fa il sindaco di Siena ha chiesto al governo di intervenire per bloccare la speculazione sul titolo, però professor Onado, la convince così l'ipotesi Zingales? Ma io credo che dobbiamo partire dal fatto che la crisi il mondo dei Paschi si sta trascinando da 3 anni, l'azione del nuovo management è stata encomiabile, ma proprio il fatto che sono stati bruciati uno dopo l'altro una serie di aumenti di capitale dimostra che la scelta di passare un po', diciamo, per orgoglio e un po' per presunzione di passare solo attraverso il mercato non ha funzionato e quindi occorrono degli interventi straordinari e mirati. A me l'idea del TARP, cioè dell'intervento americano, piace, l'ho scritto anche sul Sole 24 Ore. Non devo dimenticare che il TARP gli americani hanno fatto nel novembre del 2008, cioè a poche settimane di distanza dall'evento catastrofico che era stato Lehman Brothers. Adesso è un po' tardi, quindi probabilmente bisogna fare qualche cosa di ancora più specifico. Quello che, diciamo, non credo che ci sia un problema di danneggiare una banca perché ricorre a una soluzione un po' più drastica. Credo invece che sarebbe l'ultima e definitiva possibilmente arma. Io ricordo che abbiamo approvato una direttiva europea e la direttiva europea prevede espressamente la possibilità di interventi per piani e per banche che sono in difficoltà o che possono trovarsi in una situazione che genera dei rischi sistemici. Io credo che la strada maestra sarebbe questa. Quindi, se ho ben capito, lei però, dice... diciamo, la cosa fondamentale è smettiamo di credere che possano funzionare delle soluzioni di mercato. Di mercato, ecco, perché il mercato non ha funzionato nel caso di Monte dei Paschi, altrimenti non sarebbe potuto crescere fino a quel punto e nascondere tutto quello che ha nascosto in termini di situazioni e quindi troviamo una soluzione che eviti il tracollo della banca e i suoi clienti e poi posso trascinare e con sé il, anche altri. Il resto del mercato, che, quella, che è la domanda che ho per Moria Longo. Quindi lei dice, attenzione, sì, però in questo caso sul Monte dei Paschi si potrebbe avere una soluzione anche specifica ad hoc sul Monte dei Paschi, che non può passare solo dal mercato, perché in effetti 9 miliardi di aumenti di capitale, cioè di soldi raccolti, chiesti agli azionisti, sono stati bruciati, perché ricordo bene quando la banca ne raccolse 3, ne bruciò 3 contestualmente. Quindi a questo punto è inutile continuare a chiedere soldi al mercato, agli azionisti, interveniamo con le possibilità che dà l'Unione Europea nel caso di un elemento straordinario, di una situazione straordinaria. Moria Longo, dopo il traffico vorrei sapere quanto è alto il rischio contagio. Oggi abbiamo visto molte tensioni sulle obbligazioni bancarie. Faccio notare, ha ragione l'ascoltatore, che la BCE non ha detto 3 miliardi, non ha detto 10 miliardi subito, ha detto 10 miliardi da qua al 2018 in 3 anni. Ho capito, sono 3 miliardi all'anno però a casa mia, e poi non si capisce come e dove può trovare questi soldi sulle sofferenze bancarie. Oggi Goldman Sachs stima che ci vorranno 40 miliardi in tutte le banche italiane, eppure lì la domanda è dove li trovi 40 miliardi di aumenti di capitale a sto punto, se vuoi ricorrere solo al mercato. Comunque, traffico e poi la risposta di Moria Longo. Focus Economia. I just hope you ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, 18 e 20 minuti. Moria Longo, sì, ci chiedono anche di Cassa dei Suomi di Genova, che oggi ha preso una scoppola pure lei, ha perso il l'8,80%. Rischio contagio sull'effetto Monte dei Paschi. Qualcuno mi dice, ma come, adesso non c'è il bail-in? Sì, ho capito, ma nessuno vuole arrivare al bail-in. Abbia pazienza, ogni tanto mi irrito pure. Cioè, se pensate che la banca possa essere fatta fallire tranquillamente, Moria. Allora, l'effetto contagio c'è già stato, c'è già, non basta vedere come vanno le banche in borsa, tutte, anche quelle sane, per cui l'effetto contagio c'è per due motivi. Il primo è perché a soffrire è l'intero sistema bancario, che più chi meno hanno tutti un grosso problema di crediti deteriorati, di bassa redditività e di alti costi, che è un problema comune a tutti. Secondo motivo, perché anche le banche sane, se si presuppone che debbano salvare quelle meno sane, rischiano loro stesse di mettersi un po' a disagio. In terzo motivo, perché tante altre banche devono ricapitalizzarsi. Abbiamo Unicredito, gli analisti stimano che abbia bisogno di capitale per 5-7 miliardi, che può avere in vario modo, non solo aumento di capitale, ma comunque qualcosa dovrà fare. Carige, un'altra banca che dovrebbe fare un aumento di capitale, si stima sui 500 milioni. Quindi non c'è solo il Monte dei Paschi a dover cercare soldi sul mercato. Cercare soldi sul mercato, capitali sul mercato, in un momento in cui la borsa tracolla, non è facile per nessuno. Se posso entrare un attimo nel discorso facevate prima, sì. Secondo me quello che serve non è soltanto il capitale, perché lo dicevi tu prima, il Monte Paschi di aumenti di capitale ne ha fatti a decine e li ha bruciati tutti. Oltre a aumentare il capitale bisognerebbe risolvere il problema, cioè il credito in sofferenza. Allora, se l'aumento di capitale serve per svalutare i crediti in sofferenza in maniera sufficiente affinché questi crediti possano essere venduti sul mercato, allora si ottiene una banca ricapitalizzata e ripulita, allora ha un senso. Se semplicemente si ricapitalizza ma poi continuano a tenere i crediti deteriorati allo stesso livello sul bilancio, allora non si risolve nulla, e anche lo Stato viene poi, anche se si fanno preferred share, titoli diciamo più senior rispetto alle azioni normali. Quindi il problema è risolvere il problema delle banche, che è uno, i crediti deteriorati in sofferenza. I deteriorati totali sono 360 miliardi in tutta Italia, e due, il sistema bancario andrebbe lentamente, ma in un momento, con la maggiore tranquillità, anche ristrutturato completamente, perché così com'è, con i tassi a zero, non fa più ricavi, e quindi comunque il sistema bancario, non solo italiano ma di tutta Europa, ha un problema fortissimo proprio di modello di business che va ripensato. Quindi che problema sono che hanno anche le banche tedesche, ci sono vari passaggi che andrebbero risolti, non è soltanto mettere soldi nel Monte Paschi. No, anche perché abbiamo visto cosa è successo ai 9 miliardi. Professor Ronaldo, il punto è questo, cioè dare soldi perché vengano bruciati dalla speculazione, magari con le vendite allo scoperto, anche no, ma non sarebbe appunto per prendere il toro per le corna, perché qua sembra il videogame a cui faceva riferimento l'allora ministro Tremonti, cioè uccidi un mostro, te ne se ne crea un altro. Non sarebbe il caso di prendere il toro per le corna e dire vabbè, adesso facciamo un'operazione che possa, diciamo, che sia di aiuto a tutte le banche sulle sofferenze bancarie e blocchiamo ogni speculazione, perché non vorrei che adesso si parla del Monte dei Paschi, poi fra un po' parleremo di un'altra banca, no? Ma le due cose non sono distinte. Quello che io dicevo per il Monte dei Paschi, il Monte dei Paschi è il problema più grosso che abbiamo. E in generale dico che noi ci siamo un po' troppo baloccati nella confortante illusione che il nostro sistema bancario fosse il più solido d'Europa. E per esempio la crisi di Banca Marche si è trascinata per 3 anni, Banca Etruria è stata in una bagnomaria per un paio d'anni, insomma, quando si trattava di situazioni che andavano affrontate in modo ben più deciso. No, ma guardi, professore, sì, che ci sia stato un combinato disposto tra la politica alle prese con lo spread, con il rischio paese, con l'attacco all'euro, che non voleva sentirsi dire che aveva dei problemi con le banche. Parlo dei governi ultimo Berlusconi, Monti e anche Letta. E i banchieri che per mantenere la loro poltrona, diciamola tutta, i vertici, gli ex vertici delle banche che lei ha citato anche, continuavano a ripetere come un mantra. Ma i banchieri hanno sempre fatto così. Come i mariti infedeli, certo, negavano l'evidenza. L'ABI continuava a dire che il nostro sistema andava bene così e la politica ha voluto credere, tra virgolette, perché quando tu hai altri problemi non vuoi anche sentirti dire che hai pure il marito o la moglie infedele, se hai già altri problemi. Invece bisognava avere la forza di dire, no, aspetta un attimo, ho tanti problemi, tra cui posso avere anche il problema dell'infedeltà della moglie o del marito. Detto questo, è il motivo per cui siamo arrivati, dopo aver raccontato le banche sono diverse, adesso scopriamo che le banche italiane hanno un enorme problema, il più grosso in Europa, di sofferenze bancarie. Quella tedesca ce l'ha di derivati, noi ce l'abbiamo di sofferenze. Lei che cosa si aspetta che faccia il governo? Perché è intervenuto il sindaco di Siena, mi fanno notare gli ascoltatori, non è ancora apparsa nessuna dichiarazione dei vertici del Monte dei Paschi, quindi Viola, Fabrizio Viola in primo luogo. Cosa farebbe adesso? Un decreto per utilizzare tutti gli strumenti a disposizione nei casi eccezionali? No, chiedo. Sì, io credo che bisognerebbe intervenire sui punti più importanti di crisi, a questo punto è Monte dei Paschi, e immaginare questa soluzione. Il Fondo Atlante è una bellissima cosa, però ancora una volta, pensando che così sia una soluzione di mercato, abbiamo creato una macchina che non ha benzina sufficiente per un compito così importante, tant'è che sono bastate 2 popolari venete per esaurire tutte le disponibilità. Le cifre che diceva sono 40 miliardi, stiamo ragionando su queste ordini di grandezze, non sono fantasmagoriche e ripeto possono trovare anche dentro la direttiva europea che è stata approvata, che politicamente è molto difficile cambiare adesso, anche in questa direttiva ci sono gli strumenti per un intervento. Adesso un intervento però deciso abbastanza consistente per quanto riguarda la generalità delle banche e mirato per quelle che sono nell'occhio del ciclone. Allora Moria, un'ultima battuta, però mi chiedono molti ascoltatori, ma non è che i fondi speculativi stiano, i fondi avvoltoio, lavorando in modo che il Monte dei Paschi sia obbligato a vendere le sue sofferenze a prezzi bassissimi? Ripeto l'esempio di prima, se io ti devo 100 euro e tu in banca dici ma me ne ridarà forse 60 Barisoni, ma in realtà io punto poi tu scopri che te ne posso ridare 20, allora cercare di vendere questi 100 euro che mi devi a 20 euro, cioè, che ci sia un'ipotesi speculativa per buttare giù e obbligare Monte dei Paschi a vendere velocemente a prezzi chiaramente svantaggiosi per il Monte dei Paschi queste sofferenze. Non è un mistero, certo, è così. I fondi che comprano crediti in sofferenza comprano a prezzi molto bassi perché siccome vogliono guadagnare tanto, hanno ritorni attesi da questo investimento a 2 cifre, giustamente, ovviamente più comprano a un prezzo basso, più recuperando i crediti, anche se recuperano solo il 40%, ma se li ho comprati al 20% ho già il mio guadagno. Considerate che in Italia la giustizia è talmente lenta, servono talmente tanti anni per recuperare, quindi il prezzo scende ulteriormente. Per cui questo è ovvio, è proprio per questo che serve un intervento pubblico, perché andando gioco al ribasso, al massacro, si massacra l'intero sistema bancario italiano e dunque l'intera economia. Sì, ecco, se posso dire, attenzione a chi si illude che possa essere solo il Monte dei Paschi, perché poi inizia a prenderli uno per uno, Orazio e Curiazzi insegnano, prima prendi il Monte dei Paschi, poi fai sulla Cassa di Genova, poi ti sposti, l'abbiamo già visto fare con la speculazione sull'euro, per cui o tu hai una risposta per tutto il sistema, o se no vieni massacrato un pezzo per volta. Anche perché, diciamolo, le sofferenze nei bilanci bancari sono in gran parte dovute non solo alla mala gestione, che in alcuni casi c'è stata, ma a una recessione durissima che c'è stata. È la crisi di migliaia di imprese. È un problema e di famiglie, quanta gente ha perso il lavoro. E quindi è una crisi che le banche loro stesse hanno subito, per cui serve una risposta sistemica. Grazie a Moria Longo, grazie al professor Marco Nardo, è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.